24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, siamo in diretta fino alle 9. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Beh, parliamo della polemica tra Roberto Saviano e Marina Berlusconi, con Saviano che ha dedicato ai tre PM di Milano che indagano su Silvio Berlusconi una laurea honoris causa, e Marina Berlusconi che ha detto: mi fa orrore. Con chi state, vi chiediamo, in questo duello verbale Saviano-Marina Berlusconi? Votate su radio24.it, bianco o nero, ci trovate nell'home page, ne parleremo alle 8:30. E ora i giornali. In primo piano. Martedì 25 gennaio, le aperture sono davvero con scelte diverse. IRPEF locale subito sbloccata, così l'apertura del Sole 24 Ore, tassa di soggiorno al 5%, dunque si parla di federalismo. E poi le carte difensive del Premier per il Corriere, dunque la vicenda Ruby. I vescovi, l'Italia è sgomenta, così titola Repubblica. Su Avvenire, l'ora della saggezza e della virtù, il Cardinal Bagnasco. E mentre il Messaggero, Italia sgomenta, serve sobrietà, c'è chi sceglie Mosca, strage in aeroporto, come La Stampa. Insomma, queste le aperture davvero diverse. Io voglio andare alle segnalazioni iniziali. Intanto la prima viene dalla Stampa, a pagina 21, tra due giorni la giornata della memoria, si ricordano le vittime della Shoah. Alfano, vietato negare la Shoah. È una vicenda di cui avevamo parlato anche in passato. C'è l'ipotesi annunciata dal ministro della giustizia ieri a un convegno a Roma, ne parla Francesca Paci, di istituire una legge che vieti negare la Shoah. Negare per legge il negazionismo? Il mondo ebraico ringrazia il ministro della giustizia Alfano che ieri ha annunciato la costituzione di un gruppo tecnico per rendere il negazionismo un reato. Nel 2011 nessuno dovrebbe più mettere in dubbio la Shoah. È un tema molto dibattuto, un tema molto discusso. Per qualcuno c'è il diritto di esprimere qualsiasi opinione, anche aberrante, anche negare dunque la Shoah. In alcuni paesi invece negare la Shoah è un reato punibile, e dunque punibile con il carcere. E Alfano ha annunciato la volontà, come aveva chiesto il presidente della comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici, di istituire una legge, di promulgare una legge per istituire il reato di negazionismo. La seconda segnalazione della quale voglio partire è questa: Moratti, 50 milioni in consulenze a Milano, assegni anche a cantanti e DJ. Repubblica, con Luca De Vito e Alessia Gaglione, è andata a spulciare le pagine di tutte le consulenze di cui sono beneficiati vari personaggi a Milano. Tutto pubblico. Ebbene, spiccano come consulenti per esempio quelli dell'assessorato al decoro di Maurizio Cadeo. Si parte da Cosimo Ambrogio Maiorano, 500.000 euro. Poi al libro paga anche Gianluca Comazzi, candidato alla lista del sindaco, è diventato il garante per gli animali. Garante per gli animali si prende, credo, dov'è? 400.000 euro all'anno. E poi ci sono, ecco, i DJ. Beh, c'è Red Ronnie, conduttore televisivo e radiofonico, 105.000 euro all'anno. C'è anche Vilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva, 13.000 euro l'anno, ha fatto uno spot per i vigili urbani. Moratti, 50 milioni in consulenze a Milano, assegni anche a cantanti e DJ. Questo lo trovate su Repubblica. Oh, prima della pubblicità e il meteo, vi voglio dare un aggiornamento perché avviene una cosa straordinaria. In diretta c'è la nostra Francesca Schiavone che sta giocando in Australia, là è sera. Gioca contro la numero uno al mondo, l'abbiamo sentita anche nel GR. Purtroppo è sotto 5-3 nel terzo set, quello decisivo. Sono un set pari contro la Wozniacki. Francesca Schiavone, che però perdeva 5-2, ha annullato 3 match point ed è 5-3. È ancora in partita. Chissà se dopo la pubblicità sarà ancora in partita. Speriamo, speriamo, tra poco. In primo piano. Eccoci qua allora, intanto, perché tanto ve lo dovevo, purtroppo non ce l'ha fatta Francesca Schiavone, è stata eliminata poco fa proprio dai quarti di finale, l'abbiamo vissuta un pochino in diretta in questa insolita incursione televisiva. Ha fatto una bella partita, ha vinto il primo set, era 3-1 avanti anche nel secondo set con la numero 1 al mondo, poi la Wozniacki ha giocato bene, ha rimontato e ha perso in 3 set, ma brava comunque Francesca Schiavone. Veniamo alle notizie dei giornali. Ieri si attendeva, e oggi ne sono pieni i commenti, delle parole del cardinale Bagnasco, il capo dei vescovi. Bagnasco chiede sobrietà, il disagio morale si respira, basta logica conflittuale, così titola per esempio il Corriere della Sera le parole del cardinal Bagnasco, che per la verità ha criticato anche, come sottolinea il giornale in prima pagina, mettendo il titolo Giustizia sommaria, ha criticato anche i mezzi spropositati utilizzati per l'inchiesta. Ma certo, sono soprattutto queste parole, sobrietà e disagio morale, che risuonano, tanto che sia il Corriere della Sera intervista Franco Frattini, ministro degli Esteri, che parla per la verità di vicende che di esteri non hanno nulla a che fare, parla proprio di queste parole. Ci sono dubbi sulla quantità di indagini, dice appunto Frattini, e poi sulle parole di Bagnasco dice il ministro degli esteri: un cristiano riconosce nella Chiesa il magistero morale, certamente è naturale che si indichino e correggano comportamenti che dal punto di vista della Chiesa devono essere coerenti con quelli richiesti a un buon cristiano, ma non è lecito strumentalizzare la voce della Chiesa. E anche su Repubblica il ministro Sacconi, il ministro del welfare, dice: basta con i moralisti intermittenti, dai vescovi nessun giudizio sommario. I moralisti intermittenti non possono che rimanere delusi dalla prolusione del presidente della CEI, perché io quel discorso l'ho letto per intero ed è un messaggio molto alto che si rivolge alle coscienze di tutti. Su quell'Italia sgomenta, replica Sacconi: mi spiace per i tanti nemici della Chiesa che cercano di strattonarla iscrivendola a uno schieramento politico e conducendola a un facile moralismo intermittente che non le appartiene. Così Sacconi a Repubblica. Per la verità, se noi leggiamo la prima pagina di Avvenire, e oggi, visto che è il quotidiano dei vescovi, e poi leggeremo anche retroscena di come la presa Berlusconi, c'è una visione un po' diversa. Su Avvenire torna, e torna a scrivere, e già lo aveva fatto qualche giorno fa, creando qualche polemica per la durezza e la crudezza del suo intervento, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Il titolo dell'editoriale è «Al cuore del problema». Scrive Tarquinio: molti si aspettavano un giudizio sulle questioni sollevate a partire dall'ultima indagine condotta a Milano. Il giudizio è arrivato, non nella impossibile forma di una sentenza sommaria indebita sul premier o sui suoi accusatori, ma in quella della lucida individuazione di pesanti nodi che questa nuova vicenda mette in evidenza e che vanno sciolti. C'è bisogno, scrive il direttore di Avvenire, di ritrovare e dare stabilmente ormeggi oggettivi al primato della persona e della coscienza umana. C'è la necessità da parte di chi ricopre cariche pubbliche di testimoniare a una cittadinanza sgomenta per gli esibiti squarci, veri o presunti, di stili non compatibili con la sobrietà e la correttezza o di comportamenti contrari al pubblico decoro, la volontà di adempiere alle funzioni della politica con consapevolezza della disciplina e dell'onore. C'è, insomma, da dimostrare che in politica si sale e non si scende, e che un uomo pubblico deve essere rispettato nella propria sfera privata, ma deve anche poter vivere in una casa di cristallo. Ed è un appello che richiama l'oggettività del bene e del male, oltre ogni moralismo di comodo. Così scrive il direttore di Avvenire Marco Tarquinio. E se andiamo a leggere retroscena, per esempio, un paio ne ho selezionati. Sulla Stampa, Ugo Magri, che è uno sempre molto, molto addentro all'entourage del presidente del Consiglio Berlusconi. Beh, la delusione del premier per i vescovi definiti ingrati. Dal cardinal Bagnasco i Berlusconi temevano la scomunica, con i segnali pessimi della vigilia, scrive Ugo Magri, ma nel discorso si ritrovano, è vero, richiami ai magistrati, ai mezzi di informazione, la bacchettata sui facili costumi del Cavalieri non dispiace ai suoi gerarchi, quante volte l'avevano supplicato loro per primi di stare attento, di non esagerare la sua età. Tutt'altra faccenda invece è come l'ha presa lui, scrive Ugo Magri. Non troppo bene, sussurrano nella cerchia ristretta. Reputa se stesso benefattore di Santa Madre Chiesa, addirittura l'uomo della provvidenza, considera questi preti un po' degli ingrati. Non gli piacciono i loro traffici con Tremonti, tantomeno l'appello di Bagnasco alla famiglia in vista dell'auspicata urgente riforma del fisco. Insomma, quello che poi più disturba Berlusconi, scrive Ugo Magri, in questo atteggiamento ecclesiastico, è questa goccia continua, prima una, poi due, adesso tre, quasi una pioggia, finché nel gregge dei fedeli sarà Vangelo la parabola del peccatore di Arcore, un contributo quotidiano ormai al suo logoramento politico. E c'è da dire che anche per Libero, Salvatore Dama, anche lui sempre molto addentro e molto attento a quello che succede intorno al Presidente del Consiglio, Silvio ci rimane male. Nulla di cui vergognarmi. È vero, poteva andare anche peggio, questa è la lettura di Salvatore Dama, ma Silvio Berlusconi ci è rimasto male lo stesso. Io non ho colpe, non ho fatto nulla di cui vergognarmi, non ho commesso alcun reato. Ed ecco allora la delusione da parte del Presidente del Consiglio. Delusione che Berlusconi ha sfogato forse al telefono con Gad Lerner, l'abbiamo sentito nel GR durante l'infedele, c'è una foto di Gad Lerner, le foto a volte, le espressioni del viso raccontano molto più di qualunque parola, la foto che ritrae su Repubblica Gad Lerner con davvero il viso molto accigliato, ripreso durante la telefonata di Silvio Berlusconi, che ha telefonato e ha usato dei toni durissimi, ha detto sto assistendo a una trasmissione spregevole, turpe, disgustosa, con una conduzione ripugnante, insomma aggettivi durissimi, con Gad Lerner subito che ovviamente si è sentito offeso, ha detto perché non va dai giudici invece di insultare, poi c'è stato il battibecco, io so quello che sto dicendo e lei no, la risposta di Berlusconi, che dice voi avete offeso una signora come Nicole Minetti, mentre quelli che sono lì, le signore presenti in studio, Carmen Moravia, Ilaria D'Amico, Lucrezia Lante della Rovere, la rottamatrice del PDL, Sara Giudice, ha detto le cosiddette signore, le ha definite così, al che Gad Lerner si è molto arrabbiato, lei è un cafone, e insomma è stata una telefonata molto molto accesa. Chissà se è una strategia anche questa. Berlusconi aveva telefonato a Ballarò settimana scorsa, poi la telefonata non è andata in onda perché Floris ha detto ci ha chiamato in chiusura. Comunque è invitato questa sera, non credo proprio che andrà, chissà se telefonerà, chi lo sa. Chi invece ha telefonato a Berlusconi, questo almeno rivela il Corriere della Sera, è il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Lo racconta Francesco Verderami a pagina 11, perché c'era, secondo Verderami, da ricucire dopo l'intervista fatta a Fabio Fazio in cui la Marcegaglia ha detto da 6 mesi il governo è fermo. Chiarimento al telefono tra Emma e il Cavaliere. A pagina 11 del Corriere. Emma Marcegaglia ieri ha telefonato a Berlusconi. All'amarezza del Cavaliere per le ingiuste critiche, la presidente di Confindustria pare abbia contrapposto la propria amarezza, visto che non era mia intenzione attaccare il governo, ma rappresentare solo la situazione che si è creata. Un chiarimento dopo l'intervista televisiva con Berlusconi, che ha detto sempre avuto un occhio di riguardo per lei, sa che la stimo, le ho proposto persino di diventare ministro. Questo stallo invece è la condizione in cui si trova il governo, ed è proprio sullo stallo che la Marcegaglia si era soffermata in TV, scrive Verderami, sostenendo che a una stabilità fine a se stessa sarebbe preferibile il ritorno al voto. Insomma, un colloquio ieri sera servito a Berlusconi e alla Marcegaglia per spazzare via i soliti sospetti. E dunque vedete, il clima è di molta incertezza. C'è ovviamente anche l'inchiesta parallelamente che va avanti. La notizia più clamorosa è che quella testimonianza di Nadia Macri, mandata anche ad Anno Zero, nella quale Nadia Macri ha detto ero in una sera con Berlusconi, c'era il palo della lap dance, c'era Ruby che girava mezza nuda, poi Berlusconi nel lettino, nella stanza del lettino dei massaggi, diceva avanti l'una, avanti l'altra, avanti la terza, avanti la quarta, avanti la quinta, poi non so fino a quando è arrivato, questo racconta Nadia Macri. La Macri smentita dal cellulare, non era ad Arcore con Ruby. Questo è l'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, i due cronisti di giudiziaria del Corriere, a pagina 4, ma la trovate ovunque. Dalla lettura delle celle del cellulare della Nadia Macri si è scoperto che era ad Arcore, ma non nel giorno in cui c'era Ruby. Dunque Ruby non può averla vista, per cui questo mette un po' in dubbio tutta la sua testimonianza. Ora, pare che Nadia Macri abbia detto c'era una che assomigliava a Ruby, però certamente questo fa un po' specie. Mentre per quel che riguarda il Fatto Quotidiano si punta su che cosa? Il titolo di prima pagina è questo: altro che prostituzione, vanno puniti i PM. Viene dato ampio risalto a questa iniziativa legislativa di un ex sottosegretario, ora onorevole del PDL, Luigi Vitali, quella che Il Fatto definisce legge bunga bunga, multe per i PM che intercettano. Multe di 100.000 euro che i PM dovrebbero pagare laddove l'intercettazione viene considerata sbagliata. E come viene considerata sbagliata? Beh, lo stesso Luigi Vitali, intervistato dal Giornale a pagina 3, lo spiega molto bene. Per esempio, è un principio di civiltà giuridica: se un soggetto viene intercettato, finisce tutto sui giornali e poi c'è l'archiviazione, l'assoluzione o il non luogo a procedere, ecco che i magistrati devono pagare 100.000 euro per le persone che sono finite sui giornali. Questa è la proposta dell'onorevole Vitali. Che sia una situazione di dove voli molto del fango anche sui giornali, lo si capisce da due pagine di Corriere e Giornale. Sta tornando alla ribalta, pare, la questione della casa di Monte Carlo di Gianfranco, che ha tirato in ballo Gianfranco Fini, presidente della Camera. In arrivo le carte da Santa Lucia, la casa è di Tulliani. Questo il Corriere della Sera, pagina 6. Pare che nuove carte spedite dal governo di Santa Lucia, racconta Fiorenza Sarzanini, siano già arrivate al Ministero degli Affari Esteri. I documenti che attestano come la Timara e la Printemps, le due società offshore titolari della Casa del Principato, siano in realtà di proprietà di Giancarlo Tulliani, vale a dire il fratello di Elisabetta Tulliani, la compagna di Fini. Finora questa circostanza è sempre stata negata da Fini, dal suo entourage, ma pare che circoli questa voce, le carte che proverebbero questo legame molto diretto, nettamente diretto, tra la casa di Monte Carlo e il cognato di Fini. E infatti anche il giornale titola così: la casa di Monte Carlo è del cognato di Fini. Questo a pagina 7. Ecco perché ieri La Stampa titolava a pagina 2, sempre con Ugo Magri, sempre molto attento a quello che accade attorno a Berlusconi, Berlusconi che avrebbe detto e sarebbe gongolante su questo fronte, a dire sulla casa di Monte Carlo: presto ne vedremo delle belle. In primo piano. Vi ricordo che alla Ferrubi in qualche modo è dedicato anche il nostro sondaggio, perché questo affare ha fatto litigare Saviano, e non è la prima volta, Saviano e Barbara, Saviano e Marina Berlusconi, la presidente di Fininvest e di Mondadori. Perché Saviano ha dedicato una laurea honoris causa ricevuta a Genova ai tre magistrati che indagano il Presidente del Consiglio, e Marina Berlusconi ha detto: mi fa orrore. Questa prelude a che cosa? Intanto a una rottura: Saviano e Mondadori pronti, gli editori concorrenti. Saviano è edito da Mondadori. Saviano, il disagio della Mondadori, nessun divorzio, resta con noi per Repubblica. Mondadori, Saviano resta, questo per La Stampa. Sta di fatto, noi vi chiediamo il nostro sondaggio: state con, in questo duello verbale, con Roberto Saviano, con Marina Berlusconi? Dovete votare su radio24.it nell'home page, bianco o nero. Per ora prevalgono i voti per Saviano, credo al 59%, dunque 58%, dunque questa è la situazione. C'è sull'Unità, pagina 3, la vignetta consueta di Staino. Gira voce che sarà Marina a sostituire suo padre. Una donna? Allora siamo una monarchia abbastanza progressista. L'apertura del Sole 24 Ore è dedicata al federalismo, che così i giornali, a parte il Sole 24 Ore, mettono a pagina 20-25 dopo tutte le varie intercettazioni, dopo, e invece insomma è un argomento politico, che dite, discretamente serio, visto che se ne parla da anni e visto che potrebbero essere giorni decisivi, sia nell'uno che nell'altro senso, cioè sia che passi sia che non passi, e questo potrebbe creare davvero problemi politici, soprattutto malumori nella Lega. IRPEF locale subito sbloccata, questo è il titolo di prima pagina del Sole. E Eugenio Bruno racconta quello che è stato l'incontro ieri tra il ministro Calderoli e l'ANCI, i comuni, con tutte le possibili modifiche messe sul tavolo, sia per quel che riguarda la cedolare secca e la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno al 5%, ecco, dovrebbe essere messa, cioè la possibilità, come già c'è a Roma da parte dei comuni turistici, di fissare, ma al massimo al 5% delle spese che uno fa di soggiorno in albergo, la tassa di soggiorno, proprio per incentivare, per poi reinvestire quei soldi nel turismo. L'addizionale IRPEF sarà sbloccata fin dal 2011, questa è una richiesta dei sindaci che il governo avrebbe accolto. Comunque tutte le modifiche, sono 6 per il compromesso sull'addizionale IRPEF, sull'IMU che sostituirà l'ICI, sulla tassa di soggiorno, sulla cedolare secca, sul superamento della TARS e del TARSU e TIA sui rifiuti. Le trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, cioè le trattative per far passare il federalismo. Se diamo uno sguardo alla, lo do molto, molto breve, ma ovviamente è la scelta di molti anche di aprire le prime pagine dei giornali su questa vicenda drammatica che è avvenuta a Mosca. Do uno sguardo molto, molto breve perché vi annuncio che alle 8:20 avremo il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica, nostro ospite. Kamikaze all'aeroporto di Mosca, 35 morti. La strage all'aeroporto di Domodedovo. E lo trovate con la cronaca di Roberta Miraglia sul Sole 24 Ore, pagina 10, molte analisi anche, tra queste il Foglio in prima pagina, un kamikaze riporta Mosca nell'incubo della guerra del Caucaso, ovviamente tutti gli occhi sono puntati sui ceceni, anche se secondo alcune indiscrezioni il kamikaze aveva tratti arabi, il che obbligherà gli investigatori agli straordinari, racconta il Foglio. Sta di fatto che ne parleremo con Alfredo Mantica alle 8:20. Le altre segnalazioni, trovate un po' ovunque questi interessanti dati elaborati dall'Istat e diffusi ieri. Il quotidiano Avvenire ci fa un'intera pagina, ma la trovate anche sul Messaggero. Nascite brusca frenata, siamo sempre più vecchi. Gli italiani aumentano ancora, siamo oltre quota 60 milioni gli abitanti in Italia, anche per il contributo degli stranieri che sono 4 milioni e mezzo. Quindi i residenti, non gli italiani, i residenti in Italia sono 60 milioni e 600 mila, di questi 4 milioni e mezzo sono stranieri, cioè il 7,5% della popolazione. Il problema è che un bambino su 5 ormai nasce da donna straniera e le mamme italiane sono sempre di meno. Nel 2010 sono nati 557.000 bimbi, 12.200 in meno rispetto all'anno precedente. A fare meno figli sono proprio in particolare le donne italiane. C'è anche un'intervista al demografo Giancarlo Blangiardo, questo suo Avvenire, che dice: non illudiamoci comunque che gli immigrati ci salveranno facendo più figli, perché anche il trend degli immigrati, quando vengono in Italia, di fare meno figli, si stanno in qualche modo occidentalizzando, si stanno adeguando ai nostri modelli e i dati lo dimostrano. Dunque anche gli stranieri fanno meno figli. Nascite brusca frenata, siamo sempre più vecchi e facciamo sempre meno figli. Questo su Avvenire. Voglio chiudere con una pagina spassosa che trovate su Libero, in prima pagina Salvatore Garzillo. Sono le tasse più assurde del mondo. Se evadi, muore il cane. Avete capito? Se evadi il fisco, muore il cane. E se non fumi, son dolori. Ebbene sì, le tasse più assurde del mondo, vince nettamente una legge del 1904 in Svizzera, nel comune di Riconvalier. Bisogna pagare un'imposta di 50 franchi sul possesso di animali domestici. Se uno non la paga, viene abbattuto. Tutto l'animale domestico. Ecco qui, se evadi muore il cane, cioè ti ammazzano l'animale domestico se non paghi la tassa. Oppure in Cina, una legge folle, c'è l'obbligo nella provincia di Hubei di consumare 250.000 pacchetti di sigarette all'anno per favorire la ripresa economica. Cioè invece che disincentivare il fumo si è obbligati a vendere 250.000 pacchetti di sigarette all'anno, se no c'è una tassa per gli abitanti della provincia di Hubei. Oppure negli Stati Uniti, nello Utah, dal 2004 i proprietari di club a luci rosse pagano una sovrattassa del 10% sul biglietto d'ingresso per far vedere le donnine mezze nude. O ancora c'è in Irlanda una tassa di $18 l'anno per ogni mucca. Perché? Perché con le loro flatulenze sono problemi per le emissioni di CO2 nel mondo. No, qui mi devo fermare. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:22 minuti. Voglio salutare il sottosegretario degli affari esteri Alfredo Mantica che ci parla da Sarajevo. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Intanto ovviamente parliamo di quello che è successo ieri in Russia. Intanto notizie, sappiamo che c'è anche un italiano tra i feriti. Purtroppo ci sono 35 morti accertati di questo kamikaze. Ci sono notizie ulteriori e ultime? Sì, noi abbiamo la notizia di questo italiano. Possiamo dire che l'ambasciatore Zanardi Landi si è recato a visitarlo, non è fra i feriti gravi, darà notizie che deve dare alla famiglia, comunque diciamo che abbiamo preso i contatti. Senta, le ultime notizie da Mosca parlano di possibili, secondo i russi, di una donna attentatrice o forse due attentatori e di pista caucasica, dunque dobbiamo pensare ai ceceni? Ma io credo che sia un'ipotesi assolutamente percorribile, anche perché è avallata dalle autorità russe. D'altronde ricordiamo che grosso modo una volta all'anno avviene a Mosca un attentato di questo tipo, ricordo quello del teatro, quello della metropolitana, quindi evidentemente c'è una questione che continua di un terrorismo, diciamo, caucasico, se diciamo tale, può essere ceceno, è un problema di terrorismo internazionale, è un problema interno a quello che sono i rapporti tra la Russia e la Cecenia, che sono peraltro secolarmente difficili. A questo proposito, qualche analista oggi dice: beh, ma è la situazione derivante da un atteggiamento aggressivo da parte del Cremlino nei confronti della Cecenia. Ci sono anche intellettuali, per esempio Andrei Glucksmann, oggi, che dice: la Russia riconosca i suoi crimini in Cecenia perché da lì deriva tutto. È una visione che secondo lei è giusta o è sbagliata? Io credo che, proprio perché ho detto che il problema ceceno è un problema secolare dai tempi di Caterina, imperatrice di Russia, non è nemmeno vero che si possa pensare di risolverlo solo con le forze di sicurezza, con gli interventi militari. Esiste evidentemente un problema politico, ma è un problema politico interno alla Russia e credo che sia comunque finora stato affrontato anche in relazione a ciò che ha prodotto il terrorismo ceceno. Insomma, mi pare che alcuni degli atti classificati fra i peggiori atti di terrorismo siano addebitabili ai ceceni, quindi il tipo di scontro invocato dai ceceni non presuppone certo a priori un dialogo politico tranquillo e sereno. Senta, sottosegretario, il problema è che hanno colpito un aeroporto. L'aeroporto è una delle prime volte che si colpisce un aeroporto anche internazionale e l'aeroporto, si sa, è traffico per gente che va e viene da tutto il mondo. Questo inquieta particolarmente, dovremmo dire agli italiani: state attenti ad andare in Russia? Guardi, io credo che con gli avvenimenti di questo periodo il problema è che se ci vuole viaggiare nel mondo occorre accettare un'aliquota di rischio. Sarebbe opportuno dire: non andate in Albania, non andate in Tunisia, più le altre previsioni. Quindi non c'è nessun segnale di questo tipo. Il fatto è che è stato colpito un aeroporto, peraltro un'area, quella di consegna bagagli, che è direttamente collegata all'esterno, quindi fra le meno sorvegliate che ci sono in qualunque tipo di aeroporto. Questo peraltro dimostra che se è giusto mantenere i livelli di sicurezza, di attenzione e di guardia, la perfezione, cioè l'eliminazione del rischio, è praticamente impossibile in qualunque contesto, compreso quelli degli aeroporti che dovrebbero essere più sicuri. Quindi all'italiano che vuole viaggiare occorre dire: accetta che c'è questa aliquota di rischio ovunque nel mondo. Un'ultima domanda, visto che lei l'ha citata, proprio sull'Albania. Oggi il presidente Berisha, in varie interviste anche sui quotidiani italiani, dice: è stato un tentativo di colpo di Stato quello dei giorni scorsi, dovevamo difenderci, ci dispiace per i morti, ma non tolleriamo la possibilità di un colpo. La posizione del governo italiano qual è? Ah, guardi, è molto precisa, anche perché io tra l'altro vengo dall'Albania e c'ero qualche giorno prima degli incidenti, esattamente il 16 gennaio. Io credo innanzitutto che vada chiarito che ciò che abbiamo oggi in Albania tra maggioranza e opposizione è il risultato di una elezione che l'Unione Europea ha convalidato, nel senso accettato, stabilito, che era comunque avvenuta secondo gli standard europei. È un risultato elettorale che non piace ai socialisti di Rama, posso capirlo, perdere l'elezione per qualche pugno di voti non fa mai piacere, non possiamo dire noi che abbiamo perso nel 2008 per pochi voti da Prodi, però le battaglie si fanno in Parlamento, il Partito Socialista non va in Parlamento da quando sono avvenute le elezioni, ha, come dire, creato questa barriera, questo scontro, lo ha portato nelle piazze, è comprensibile, anche noi abbiamo invitato il presidente Berisha a continuare il dialogo, a trovare una soluzione politica, ma la violenza deve essere a priori esclusa, soprattutto in un paese come l'Albania che ha fatto una lunga strada negli ultimi 10 anni, sia con Berisha sia con i socialisti, quindi è un processo del paese e chi opera in questo modo è contro il paese e contro il suo avvicinamento all'Europa. Quindi il premier Berisha è un premier regolarmente eletto, democraticamente eletto, questa diciamo. Non sarà il migliore del mondo, questo non sta a me a definirlo. È giusto che ci sia un confronto politico, ma all'interno del Parlamento. La ringrazio, buona giornata, grazie sottosegretario Alfredo. Grazie. Mantica, sottosegretario agli esteri, per parlare di questa situazione internazionale, a luce soprattutto di questo attentato terribile a Mosca. Noi veniamo alle cose nostrane, veniamo al duello verbale che c'è stato molto duro, anche oggi sui giornali prosegue con gli sviluppi tra Roberto Saviano e Marina Berlusconi. Roberto Saviano, lo scrittore, Marina Berlusconi, primogenita del premier, presidente di Mondadori, presidente di Fininvest, sulla laurea honoris causa che Saviano ha ricevuto a Genova, ha dedicato ai 3 magistrati che indagano su Berlusconi, padre, e Marina Berlusconi che dice: mi fa orrore Saviano. Con chi state? Questo vi chiediamo banalmente. Radio24.it, votate o con Saviano o con Marina Berlusconi. Ci trovate anche su Facebook, ora abbiamo la benedizione del Papa, insomma, Facebook, la benedizione del Papa, e dunque va bene. 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Eccoci alle 8:34 minuti. Una domanda semplice cioè, vi facciamo oggi: state con Roberto Saviano o con Marina Berlusconi? Roberto Saviano, che ha dedicato la laurea honoris causa ai 3 magistrati che indagano sul presidente del Consiglio, e Marina Berlusconi, primogenita, figlia del premier, ma anche presidente di Mondadori, cioè la casa editrice che è la casa editrice di Roberto Saviano. Questo è il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Chiudo soltanto con la mia personalissima dedica di questa laurea e di questa giornata che ovviamente non dimenticherò per tutta la vita. E dedico questa laurea a 3 magistrati, alla Boccassini, a San Germano e a Forno, che in questi giorni stanno vivendo, credo, giornate complicate solo per aver fatto il loro mestiere di giustizia. Grazie mille. Eccola qui la dedica che ha fatto arrabbiare, mi fa orrore, ha detto Marina Berlusconi. 800 24 00 24, se volete intervenire, votate su radio24.it. per ora con il 58% vince le preferenze lo scrittore Roberto Saviano. Ne parliamo con 2 direttori, Alessandro Sallusti del giornale, buongiorno direttore. Buongiorno. E Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Sallusti, anche lei fa orrore? La posizione di Saviano, o orrore, insomma, è anche una presa di posizione molto forte? Beh, la posizione del presidente Marina Berlusconi è molto forte, però certo c'è dell'orrore in tutto questo, ma c'è dell'orrore che sfiora anche il ridicolo, oltre che essere un orrore, perché non vedo cosa ci sia di eroico nel mandare 100 carabinieri alle 7 del mattino nelle case di 10 ragazze a perquisire i loro cassetti, a curiosare dentro il loro computer per un presunto giro di prostituzione. Credo che decine di magistrati fanno questo tutti i giorni senza, come dire, meritare il plauso di Saviano. Poi c'è anche un inciso che, voglio dire, per quello che vale, beh, insomma, il PM Forno è stato al centro di alcuni clamorosi errori giudiziari che hanno rovinato la vita di diverse persone. Mi riferisco per esempio a metà degli anni 90 a quel clamoroso caso in cui un padre venne accusato di aver abusato della bambina di 2 anni, poi si scoprì che quelle scoriazioni erano frutto di un tumore maligno, la bambina poi morì pochi mesi dopo. E quella famiglia e quel padre furono completamente rovinati. Lei non crede però che ci sia il rischio, è quello che ha detto anche Saviano poi in un'intervista, di delegittimare i giudici in questo momento di clima molto molto teso, e per questo Saviano ha detto: con questo rischio di delegittimazione mi sono sentito di stare dalla parte di 3 magistrati che stanno facendo un'inchiesta. Ma a un tentativo di delegittimazione non può rispondere col silenzio. A mio avviso sono i magistrati che stanno cercando di delegittimare la politica, in particolare il Presidente del Consiglio. Proprio ieri si è scoperto che uno delle testimoni ha raccontato il falso, credo che rischi, almeno così scriviamo noi stamattina, di essere per fare questa testimonianza. Nadia Macri, sì. Esattamente, in generale, come dire, siamo in una, sono state messe assieme una cozzaglia di dichiarazioni che si contraddicono l'una con l'altra e sono date in pasto all'opinione pubblica. Comunque vada a finire l'inchiesta dal punto di vista giudiziario, il danno che è stato fatto rendendo pubbliche queste intercettazioni, sì, ripeto, molto contraddittorie, ancora tutto da verificare, il danno d'immagine che è stato fatto al Presidente Berlusconi, al governo e quindi al sistema Italia, al Paese Italia, ormai è irrimediabile. Sentiamo, se si scoprisse domani, sì, che è tutto falso, il danno che i magistrati hanno fatto resta, quindi... Sentiamo su questo cosa ne pensa Padellaro, intanto sull'inchiesta, anche oggi il Fatto Quotidiano ovviamente ci torna, e però partiamo dal punto del duello verbale Marina Berlusconi e Saviano. Le chiedo anche in aggiunta, oltre a un parere sul duello, se secondo lei a questo punto Saviano debba ancora di essere scrittore di Mondadori, perché questo è un tema che c'è sui giornali. Padellaro. Ma noi questa mattina abbiamo fatto un titolo in prima pagina che diceva: fuga da Mondadori? No, stanno tutti bene. Ed è un titolo che spiega un po' l'aspetto, direi, tragicomico di tutta la vicenda. Non sto parlando ovviamente di Saviano né di Marina Berlusconi, hanno espresso dei legittimi, anche se forti, pareri, però questa cosa degli scrittori che lavorano, scrivono per Mondadori e che ogni tanto si fanno venire delle crisi di coscienza, no? Sta diventando anche un po' ridicolo. Che dovrebbero fare? Dovrebbero andarsene, per essere coerenti? No, io non lo so cosa dovrebbero fare, credo che porsi continuamente, perché la cosa interessante è che poi sono autoriflessioni, no? Il problema se stare o andarsene. Beh, sta diventando, oltre che stucchevole, le facciano quello che vogliono, ecco. L'importante è che non ci annoino con le loro, così, con i loro tormenti. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non ho opinioni particolari, se non quella della stanchezza rispetto a queste vicende. Se la Marina Berlusconi ritiene che Saviano dica cose orribili, beh, se ne liberi. Il problema è che Saviano è una gallina dalle uova d'oro, perché Gomorra ha venduto milioni di copie. Insomma, non è che è facile rinunciare alle royalties su Saviano, no? Insomma, poi alla fine... Ma secondo lei parlava da figlia o da presidente della casa editrice? Più da figlia, forse. Ma no, ma io penso che lei parlasse soprattutto da figlia, perché è evidente che questa storia che ha travolto Berlusconi non può far piacere ai figli, ma non so neppure se qualcuno ipotizza, ne parliamo anche oggi anche noi, che lei possa essere, come se fosse una monarchia, la delfina di Berlusconi, ma restiamo al punto. Il punto è che conviene alla Mondadori e conviene agli scrittori, anche quelli, come dire, di sinistra, restare alla Mondadori, perché poi, come dire, i soldi sono soldi. Se avesse detto, chiedo sempre a lei, Padellaro, dedico la laurea honoris causa ai magistrati, perché rischiano di essere delegittimati, i magistrati, la magistratura, faceva differenza? Cioè, indicare quei tre magistrati vuol dire quali? Quei tre magistrati che stanno indagando sul Presidente del Consiglio. Ma non lo so, non so. Io devo dire però che in tutta questa storia c'è una capacità, devo dire, abbastanza apprezzabile da parte degli amici di Berlusconi, di puntare la loro attenzione sugli effetti e non sulle cause. Ora, non è che i magistrati sono infallibili, anche questa inchiesta vedremo come andrà a finire. Certo, la causa non l'hanno provocata i magistrati di Milano, ma quella famosa telefonata di Berlusconi è la storia che ha fatto il giro del mondo della nipote di Mubarak, perché se si perde di vista il punto focale, l'inizio di tutta la vicenda, e cioè di un Presidente del Consiglio, ormai evidente, costretto a chiamare la questura di Milano perché c'è una ragazzina fuori controllo, no? Che è stata arrestata e può dire delle cose molto, molto, molto imbarazzanti sulle scene, sulle signorie di scene di Arcore. Se si perde di vista il punto di partenza, poi è chiaro che tutte le opinioni sono legittime. Quello è il punto. Da questo punto di vista, Sallusti, poi sentiremo tra poco, perché sentiremo quello che è successo ieri tra Gad Lerner e Berlusconi. Qualcuno dice si cerca di alzare esattamente un polverone per cercare un po' di confondere le acque, addirittura di sarebbe quasi un ordine dato da Berlusconi, visto che lei ha partecipato credo a un vertice a Arcore come responsabile, insomma, direttore del giornale, quasi un ordine di fate casino, no? Nel dubbio fate casino nelle trasmissioni, litigate, andate via, piuttosto se la situazione, insomma, sta diventando un po' complicata. Sallusti, ci aiuta a capire, stanno aumentando queste trasmissioni in cui si litiga tutti, no? Ma non è che si litiga per il gusto di litigare o perché è stato dato un ordine di litigare, si contesta, e parlo soltanto appunto degli ultimi quattro giorni, si contesta di spacciare Macri come un test chiave affidabile quando i racconti sulle orge che crede di avere visto vengono smentiti non solo da altri testimoni, ma anche ci sono amici e parenti di Macri che testimoniano come lei in più occasioni abbia detto di volersi inventare qualcosa per incastrare Berlusconi. Si contesta il fatto che in una trasmissione sulla RAI vengono mandate in onda in sequenza delle immagini di Berlusconi con delle signore spacciate dentro questo contesto di escort, quando queste signore, come abbiamo documentato, magari sono delle turiste che incontrano Berlusconi nella piazzetta di Portofino. Però mi scusi, vede Sallusti, anche lei, Padellaro dice... focalizziamoci dalla nascita di tutta questa vicenda, perché poi la signora che è apparsa in fotografia a Ballarò è spacciata per escort, che è la moglie di un distinto signore veneto. E vabbè, si sarà giustamente arrabbiata alquanto, insomma. Ma magari ci si arrabbia anche perché da Santoro viene mandato in onda dei braccialetti che si dice essere regalati da Berlusconi a queste signore, e poi si scopre essere comprati dai loro. Ma però questo è il punto focale della questione. Del falso. Ma è questo il punto focale della questione, o è, come dice Padellaro, veniamo alle cose, cioè da dove è nata la vicenda, la telefonata, la questura, poi ovviamente quei verbali ognuno li tira come vuole, insomma, dalla parte che vuole. No, ma più che tirare i verbali, qui si tratta di spacciare delle notizie vere o delle notizie false. È ovvio che bisogna partire dal punto di partenza, ma nel punto di partenza c'è anche la testimonianza del dirigente della questura che sostiene di non essere stato concusso. C'è una dichiarazione del procuratore capo della Repubblica di Milano che dice che non è accaduto niente di irregolare, c'è un ministro degli interni che ha fatto un'indagine interna e dice che non è accaduto niente di irregolare, c'è una sentenza del CSM su un esposto del magistrato minorile che dice che non è accaduto niente di irregolare. Il punto di partenza sono anche quelle cose lì. Queste cose. Un giudice stabilirà che ha ragione. Ma no, certo. Intanto mi lasci dare le informazioni sul traffico, che poi ripartiamo, sentiremo anche la lite Berlusconi-Gad Lerner fresca fresca di ieri sera. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il 58% per ora sempre dei votanti sta con Roberto Saviano, il 42% con Marina Berlusconi. Sentiamo che ne pensa Martina da Pavia. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma io sto certamente con Saviano, perché mi sembra che questo ennesimo attacco comunque ai giudici, alla magistratura, sia assolutamente fuori luogo. Ormai siamo ad un livello di contrapposizione tra i livelli istituzionali che non ha precedenti. Lei sta con Saviano, secondo lei ha fatto bene a dedicare questa laurea ai tre magistrati che indagano su Berlusconi? Assolutamente sì, se lui se la sentiva, comunque, come dire, la notizia del giorno è una delle questioni più salienti. No, ma certo, è una dedica legittima, la dedica a chi vuole, l'ha dedicata a lui. Grazie Martina. Assolutamente vero che i giudici sono sotto scacco in questo momento, che i magistrati sono sotto scacco in questo momento, quindi ha fatto bene. Grazie. Roberto da Torino, buongiorno. Buongiorno. Io penso non sia stata una grandissima idea, posto che sono un ammiratore di Saviano per il suo lavoro e un sostenitore dell'azione della magistratura. E proprio per questo però credo che non sia così opportuno trascinarsi tutti dentro un agone, dentro un'arena dove sia Saviano sia la magistratura sarebbero più utili se stessero fuori. Cioè, Saviano parla di cose che sono patrimonio comune, la lotta alla mafia, la lotta alla criminalità, non è giusto schierarla a destra o a sinistra. è così la magistratura. Per me non l'ha schierata a destra e a sinistra, ha fatto una dedica, lei dice, inopportuna. Però puntando direttamente a quei tre magistrati. Beh, certo, questa sì, non alla magistratura, a quei tre magistrati. Questo è il punto che ha fatto appunto sbottare la presidente di Mondadori. Grazie Roberto. Allora, ieri come a un certo punto Berlusconi ha telefonato, aveva telefonato a Ballarò, ma non è andato in onda martedì scorso. Ieri invece con Gad-Lerner è iniziata ed è finita subito malissimo. Buonasera Presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Essendo lei anche il mio Presidente del Consiglio, la prego di moderare i termini. Io so quello che sto dicendo, lei no. Avete offeso al anche di là del questo possibile la insomma, signora Nicole Minetti. Avete capito? Poi ecco, parla di Nicole Minetti cioè, è partito con molto aggressivo, no? Berlusconi con Gad-Lerner che ha cercato di difendersi. Vediamo di capire come finisce questa telefonata. Studi lavorando, è di madrelingua inglese e svolge un importante e apprezzato lavoro con tutti gli ospiti. Parla di Nicole Minetti. Questo le consente di saltare la gavetta della politica? Cosiddette signore presenti. Il presidente. Le signore non sono cosiddette. E lei è un cafone se le chiama cosiddette. Lei è un cafone, avete sentito? Insomma. Nei suoi confronti. E poi sentite l'invito finale di Berlusconi. Finisco. Invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Antonio Padellaro, direttore del Fatto, è finita così. Insomma, con Ballarò forse non so se sarebbe andata diversamente il martedì scorso. Intanto la prima notizia e che via Zanicchi è rimasta, sì, non ma... ubbidisce, non ha ubbidito, questo è vero. Segno, cavaliere. Lei dice. La seconda, ecco, io non avrei usato a posto di Berlusconi, che era piuttosto alterato, lo si può anche comprendere, la parola postribolo, visto i precedenti, insomma, avrei usato altre espressioni. Ma no, mi sembra che ci siamo veramente un po' fuori controllo. È una telefonata strana, è la telefonata di una persona sotto pressione, certamente, si può comprendere, ma che non si controlla, ma il Presidente del Consiglio queste cose non le deve fare, se anche rispetto del suo ruolo. Ma poi devo dire una cosa, io ho visto l'infedele, ma non mi è sembrata una trasmissione così che abbia detto cose così gravi. C'erano delle persone che hanno sì discusso animatamente, ma insomma non hanno detto niente che non fosse stato già detto in precedenti dibattiti televisivi. Non capisco quindi questa reazione, forse era una difesa della Minetti, chissà. Ma io questo non devo dire, non ho visto la trasmissione, non so se l'ha vista il direttore Sallusti, e che ne pensa? È lecito, è giusto che Berlusconi intervenga in maniera molto aggressiva, insomma, deve essere stato molto molto arrabbiato dalla visione dell'infedele di ieri. Sallusti. Io ritengo legittimo che un uomo, cioè non è perché uno è Presidente del Consiglio, può accettare di essere denigrato da chiunque in qualsiasi contesto. Uno reagisce e non vedo perché, anzi, un uomo che ci mette fuori la faccia, la voce per difendersi da quelle che ritiene legittimamente essere dell'aggressione, lo trovo un atto di coraggio, un atto di trasparenza. A proposito del vostro sondaggio, sì, c'è da notare come tutto questo polverone, questa polemica, di fatto non sposta nulla nell'opinione del paese, perché 58 a 42. Sì, adesso 57 a 43. 57 sì, a 43 rappresenta esattamente, direi quasi al millimetro, i due schieramenti del bipolarismo italiano, cioè il centrodestra è al 43, il centrosinistra più tutto quello che non è centrodestra è giusto al 57. E quindi significa che l'opinione. Va bene, noi siamo abbastanza cioè, fedeli, chi era di centrodestra ritiene questo un polverone, chi era anti-berlusconiano ritiene questo. Senta, Sallusti, io ho 30 secondi per chiudere, mi risponda sinceramente. No, ma lei è direttore di un giornale, è edito da Paolo Berlusconi, lo sappiamo, però le chiedo, quella telefonata alla questura, secondo lei Berlusconi avrebbe potuto non farla, avrebbe fatto meglio a non farla per una questione di ineleganza, oppure proprio un presidente del Consiglio, quella telefonata in questura, qualunque cosa abbia detto poi ad accertare, non deve farla? No, io credo che ci siano una questione di opportunità o inopportunità, e poi ci siano dei reati. Che sia inopportuno può essere anche condivisibile, non so se tornasse indietro se lo rifarebbe, ma che questo costituisca un reato, A, è tutto da dimostrare, B, per gli elementi che ci sono in mano, non lo è. Un reato. Quindi al limite è stata una cosa inopportuna, che avrebbe potuto risparmiarsi, insomma, per opportunità. Esattamente. Va bene. Grazie ad Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e ad Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano. Come detto, appunto, continuate a votare. Siamo su Facebook, ci trovate 24 mattino, troverete che cosa? Ma insomma, magari metteremo anche qualche altra foto, qualche animeremo un po' il dibattito. Mi rimproverano anche di animare di più il dibattito. Insomma, già tanto che sono capitolato su Facebook, adesso devo pure andare ad animare il dibattito. Però il Papa ha detto che Facebook va bene. E dunque Ubi Maior, noi animeremo il dibattito. Ci fermiamo con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, l'Alpino, che trovate in foto anche lui, senza la penna, ma metteremo anche la penna dell'Alpino. E allora, che dire, linea Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.